Io vado, È tutto. Ok. Registrato. È tutto. Registrato. Ascoltate. Ascoltate. Cari amici di Radio Pazza, bentornati. Bentornati, io sono Bach, sono qui su Radio Pazza facendo di nuovo interviste. E qui ospiti abbiamo oggi Pete Capasso, in arte analogico perplesso. Salve, buonasera. Analogico perplesso col punto esclamativo, perché Pete? Perché il punto esclamativo è importantissimo. Vedi alcuni dischi degli Ultravox, quando c'era il punto esclamativo e c'era John Fox, quando non c'era più il punto esclamativo e c'era Mijur. Vedi un po' la differenza e poi capirai magari perché il punto esclamativo è importante nella vita. Bene, invece analogico lo dico io perché? Perché analogico è tutto ciò che non è digitale. Però poi tu ti occupi di musica digitale. Bravissimo. E questo ti lascia un po' perplesso, vedo. Sì, sì, perplessissimo, guarda. Bene, io ho fatto la mia piccola ricerca, ho fatto i compiti a casa e mi sono messo a cercare la definizione di perplesso. Perplesso ha dei sinonimi e dei contrari. Però. Ecco, sinonimi. Allora, vado con l'elenco. Confuso, dubbioso, restio, riluttante, sospeso, tentennante, titubante, vacillante, incerto, vedi anche, annebbiato, assente, mortificato, ottenebrato, sconcertato, stordito, turbato, esitante, indeciso. Quanto di ciò è vero in quanto ci sta ti riconosci? Tutto. Ma io diciamo al 100%, c'è tutto, cioè c'è tutto. C'è tutto, mi riconosco al 100%, alla fine è quello il segno, diciamo, quello è il senso che volevo dare alla perplessità. Nei contrari vedo incerto, fiducioso, saldo, vedi anche convinto, sicuro, fidente, sereno, tranquillo, deciso, determinato. Bene, questa è la tua fotografia o secondo te la fotografia di un'intera popolazione di giovani italiani? Diciamo che è un po' la mia, questa è la mia fotografia, ma sicuramente diciamo può benissimamente rappresentare una percentuale molto alta di ragazzi, sicuramente. Almeno io mi vedo così, se ci sono coetanei miei che magari si riconoscono in me, mi fa piacere. Spero che ci siano altre persone perplesse nel mondo. Non so perché tu sei perplesso. Io assolutamente, io ho deciso addirittura di andarmene dall'Italia per questo, perché ero troppo perplesso sinceramente, soprattutto dalla situazione odierna. Hai fatto benissimo. Poi ognuno la sente a modo suo, io ho seguito l'istinto perché vado più a pelle nelle scelte di vita, però ci sono ancora grandi combattenti che seguono la loro causa d'onore, tra questi cito il nostro caro amico Grex che ci sta ascoltando da Roma. Ciao Grex. Grande, Grex è un mito. Lui è il cofondatore di Radio Pazza insieme a me. Quindi non posso far altro che tesserne le lodi. Che volevo dire? Ecco, tu ti sei spostato da poco a Milano con la tua elettronica autoironica. Sì. Elettronica autoironica è una tua definizione o quella dei giornalisti? No, actually, come dicono gli inglesi, è una definizione che mi hanno dato in un'intervista, diciamo, non l'ho scelta io, però è molto bella, quindi ringrazio chi me l'ha scritta. E invece ti piace sentirti recluso come molti nei generi musicali, per esempio, perché ecco, diciamo, io ti ho conosciuto su MySpace e la prima cosa che vado a vedere sì. Da dove sta, insomma, la persona o il gruppo. E poi che genere fa? E il genere che c'è scritto nel tuo MySpace è pop, elettronica, new wave. Credi ancora esistano questi generi? Ma cioè sicuramente c'è chi lo fa ancora, però per esempio la new wave, chi fa realmente la new wave secondo me c'è, ma sicuramente non li conosciamo più perché non vengono più fuori, perché la massa comunque lo star system chi porta fuori non sono quelli veri tra virgolette, no? Sono persone che comunque si adattano, vedi me, anche io mi adatto, alla fine faccio qualcosa che mi piace ma che comunque cerco di piacere un po' a tutti, quindi c'è sempre il compromesso continuo chi sceglie le vie estreme, secondo me, è tagliato molto fuori da tutto oggi. In questa società, purtroppo, è così. Infatti, oltre ad analogico perplesso, potrebbe anche essere analogico compromesso, volendo. Compromesso. Diciamo che un'altra delle definizioni molto carine che ho visto sugli articoli su di te è quella di emergente in emergenza. Sì, questo l'ho scritto io, questa è la definizione che mi sono autodato quando mi hanno chiesto come fosse nata Diossina Paranoia, il brano che magari poi più tardi ascolteremo. Sì, e, sì, già l'ho messo in playlist. Beh, la mia risposta è stata questa, è nata cioè dalla testa di un emergente in emergenza, perché effettivamente è così, cioè sono un musicista emergente, mi chiamano così, sono un emergente in emergenza, perché c'è un'emergenza ben grande a Napoli, quindi ecco. è stata la pura verità, Fino a che punto è considerato emergente o un emergente? Cioè, si aspetta il suo grande successo oppure è solo una questione di tempo? Ma ascolta, io penso che oggi, tranne Ramazzotti, Pausini e chi conosciamo perché stanno lì da 50 anni, siamo un po' tutti emergenti. Quindi in realtà l'emergente rimane, nasci emergente e muri emergente, magari tu sei convinto di arrivare nella vita ma resti l'emergente a vita. Io conosco musicisti che hanno fatto tantissimo ma anni luce più di me continuano a sentirsi magari non emergenti ma promesse. Capisci? Cioè, non è che il curriculum è molto grande, ste quindi... promesse, ste famose promesse. Pronto, Pete, mi senti? Sì, sì, sono in linea. Ah, no, ci siamo persi, o almeno mi sono perso io. Beh, no, ce l'ho il punto in cui tiri fuori qualcosa su questo argomento dal tuo blog, e cito anche la fonte, il blog sì. Di Analogico Perplesso è www.myspace.com/analogicoperplessoproject, in inglese CT finisce, quindi... potete andarlo a visitare, è molto interessante. Potete anche ascoltare altri pezzi di Analogico Perplesso. E nel blog ho trovato questa cosa molto carina, un post di sabato 3 gennaio 2009, quindi recentissimo. È la crisi che ha paura di me, umore perplesso, categoria blog. Lo leggo, posso? Sì, va bene. Sì, prego, prego. Per chi non l'avesse capito, due punti a capo. Analogico Perplesso non è il direttore della Sony, non comanda la Universal, non si chiama Tiziano Ferro né Laura Pausini, non è un parente di Ramazzotti, cantante o liquore, non ha un'etichetta indie, guadagna un cazzo con la musica, è un fan accanito della precarietà, non ha una lira, che convertita in euro addirittura peggio, ed è consapevole di tutto questo. Analogico Perplesso non ha paura della crisi, è la crisi che ha paura di lui. Buon 2009. Sì, infatti, immaginati la crisi che viene a casa mia. Cioè, che cazzo vuole da me? Fammi capire, che vuoi da me? Cioè, non c'è un cazzo da darle. Quindi, però non hai neanche un cazzo da perdere, devo dire. E infatti, è questa la verità, che non ho un cazzo da dare né da perdere. Quindi, automaticamente, status equo. Sono sulla soglia tra il pazzo e il normale. Quindi. Beh, allora io ti faccio un grande augurio e utilizzo uno dei pezzi che tu hai scelto, mandando la canzone di Peter Gabriel, Grow Up, con la speranza di crescere tutti quanti prima o poi un giorno, o almeno crescere bene. Speriamo. Eccola qua, Grow Up. E poi. Sì. Sì, no, dico che questa canzone dice poi una cosa bellissima, che growing up, dice growing up looking for a place to live, cioè crescendo e cercando un posto per vivere, e il musicista è un po' sempre nomade alla fine, quindi ci sta a pennello, dai. Ah, ho scoperto che anche lo speaker radiofonico lo è, sempre nomade, fidati, e questo è il mio caso. Questo è Peter Gabriel con Grow Up. Buon ascolto, a dopo. dot. One dot. Two dot. Pair of eyes, a voice, a touch, complete surprise. Two dot. Growing up, looking for a place to live. Growing up, growing up. Looking for a place to live. Growing up, growing up. Looking for a place to live. Growing up, growing up. Looking for a place to live. My ghost left and traveled so far in the unknown. My ghost left and traveled so deep into your space. Rientrati, Pit, mi senti? Sì, sono in linea, dimmi. Okay. Dico ai nostri amici ascoltatori che stiamo facendo molta attenzione, insomma, perché oggi la connessione sembra essere precaria. Soprattutto la giornata è stata regnata. È molto precaria, sì. Sì, è stata impregnata di sfortuna sin dall'inizio. Dimmi. Ma sei in linea con un precario, quindi è normale che la connessione sia precaria. Esatto. dimmi. Che volevi dire? No, te l'ho detto questo, cioè che è normale, sì, che la connessione sia precaria. Ovvio. E poi, guarda, io voglio anche raccontare un po' questa giornata. È iniziato tutto così, pronti per l'appuntamento, oggi dovevamo sentirci per le 3 e succede che all'improvviso il suo microfono non funziona. Vabbè, non fa niente, vediamo, sì, che si può fare, cambio scheda madre, non so che. A un certo punto salta la corrente, io colto da crisi interstellari, non so che fare, scendo dal portone, inizio a chiamo la vicina, eccetera, non hanno corrente neanche loro. Praticamente a Barcellona è esplosa una centrale elettrica sulla Rambla, quindi è anche sotterranea col tombino. E niente, insomma, un olocausto, wow, praticamente. Comunque, che volevo dire? Ah, ecco, siamo rientrati da una canzone di Peter Gabriel, Growing Up. E non so, tu vorresti dire qualcosa su questo pezzo? Perché, insomma, avendolo scelto, immagino che magari avrà un valore sentimentale o personale. Sì, sicuramente. E penso che comunque un po' tutta la playlist che, diciamo, che abbiamo scelto è... Ma rifacciamo questa? C'è problema da capo, tranquillo, vai. No, dicevo, sì, sicuramente sono molto legato a questa canzone, sia, non penso sentimentalmente, ma emozionalmente, in quanto mi ispira delle emozioni molto forti. E tra l'altro questo è un disco che Peter Gabriel ha fatto, che ha cacciato, diciamo, dopo 11 anni di silenzio, e durante i quali è stata fatta, diciamo, una selezione di circa 70 pezzi, avevo letto da qualche parte. Oddio, che disco è questo? 11 pezzi, non lo conosco. Di cui uno è questo, sì, di cui uno è questo, abbiamo ascoltato stasera, che secondo me, a me personalmente, rappresenta l'apice dell'arrangiamento, cioè è bellissimo da un punto di vista di proprio di arrangiamento. Io ho scelto 5 pezzi in base a un po' a tutto. Questo è il pezzo di arrangiamento, secondo me, perché sì, perché per me questo è l'arrangiamento di una canzone. Si arrangiano così i pezzi. Ma che disco è questo di Peter Gabriel? Io sinceramente non sono molto questo preparato. È Up, si chiama Up, è l'ultimo, mi sembra che abbia fatto, non so se è l'ultimo, io mi ricordo c'è stato un grande buco dopo Us, credo, vero? Sì, o Us o So, non mi ricordo come si chiama, so, sinceramente, so. No, è vero, So e poi fatto. C'è stato Us, comunque lui fa questi titoli così brevi, insomma magari uno si confonde, poi sì, è colpa sua, quindi. Ma infatti, poi sinceramente non è che mi sia piaciuto tanto, mi è piaciuto tanto, diciamo, quello prima di questo, prima di Up, perciò magari non lo ricordo nemmeno con molta semplicità. No, no, mi ricordo So, questo qua che è Up sicuramente, poi mi sembra che lui abbia cacciato un ultimamente, però non ne sono sicuro, perché comunque mi sono un po' perso con i dischi ultimamente, quindi mea culpa. Senti Pete, io volevo chiederti una cosa particolare, nel panorama nel panorama musicale italiano. Faccio la mia personale, come si dice, sai, quando cerchi similar artist. Io faccio la mia personale, sì. E credo che tu possa essere messo vicino a personaggi come ovviamente Bugo, Mao di Mao e la Rivoluzione, Il Genio, sì. Amari, che è un gruppo, sì, che ho scoperto casualmente, sì, su Last FM, My House on Mixtape, sì, che è un ragazzo di Bologna, e Ex Otago. Quanti, sì, di questi conosci? Ah, tranne l'ultimo tutti. Ok, che ne pensi di questa mia personale, diciamo? Sinceramente non ne sono molto convinto, il che mi lascia perplesso, il che è buono. Il che funziona. Vabbè, il che funziona, bravo. Stai a posto. Mi ha lasciato perplesso, quindi stai a posto. È fantastico. E invece tu quali credi siano i tuoi similar artist? Ma io personalmente, almeno filosoficamente, ecco, non per forza a livello musicale. No, no, io ti posso dire che sicuramente vedo molto vicino a me, non ti dico proprio i gruppi, però un po' il genere. A me piace molto il pop alla fine, però mi piace anche molto il progressivo, per esempio, il progressive rock degli anni 70, associato poi con l'elettronica, il wave. Quindi vicino a me in Italia posso vedere sicuramente... cioè, nel senso che mi piacciono, che magari ho preso ispirazione da questi artisti, sono Blue Vertigo, Morgan. Sì, io avevo scelto anche Blue Vertigo, poi ho detto aspetta, i Blue Vertigo sono meno goliardici nei testi, quindi ci ho pensato bene prima di metterli. Sì, perché sì, effettivamente sì, loro sono un po' più, sì, ecco, come hai detto tu, meno goliardici magari, però io sinceramente li ho trovati molto interessanti nella mia adolescenza. Ah, dici a me, io da quando ho 17 anni, adesso, e oggi ne ho 32, quindi immagina, insomma, sì, sono una, sì, siamo importante, un po' cresciuti, sì, tutti, no? Un po' con il, sì, Blue Vertigo. Sì, no, e poi in maniera sotterranea, non sono mai stati un gruppo sulla cresta dell'onda, almeno fino agli ultimi due dischi loro. Quindi sì, bisognava, infatti, andarseli a cercare per conoscerli, quello sì. Poi sicuramente mi avvicino comunque tanto, secondo me, almeno io, cioè penso io mi avvicino a questi artisti, oltre a Blue Vertigo, Soerba, non so, mi piace tantissimo Ivan Graziani, i cantautori, diciamo, degli anni passati, Battisti e Graziani in particolare, Battiato, che sono un po', diciamo, Gaetano, l'origine Gaetano della mia ironia. Sì, sicuramente anche lui, Lino Gaetano anche. Mi piace un po' tutta la scena cantatoriale. Infatti ho scelto un pezzo di Battisti, ma Battisti per me in questo momento rappresenta tutti gli altri. Cioè lui e anche diciamo Lino Gaetano, rappresenta comunque Ivan Graziani, rappresenta comunque Celentano, rappresenta un po' tutti i cantautori italiani degli anni passati, che comunque avevano, secondo me, molta ironia nella Secondo te oggi ce ne sono ancora, a parte il tuo caso? O meglio, io vedo alcuni come Max Gazzè, però alla fine, sai, quello che cerchiamo è qualcosa che vada anche oltre, qualcosa che anche i critici siano in grado di dire, ok, lui è più bravo di Battisti, è più bravo di Rino Gaetano, sai, stiamo aspettando ancora o ci sono? Ascolta, io penso che ci siano, secondo me ce n'è di persone capaci, non faccio il mio caso in questo momento perché non mi va di criticare, sì, certo. Però penso che comunque siamo inglobati in un meccanismo dal quale non si potrà mai più uscire. Cioè, ci sono persone che magari sono anche migliori, però non verrà mai detto per la critica questo, capisci? Resteremo per sempre, o resteranno per sempre, persone secondarie o cloni o persone che hanno preso spunto da questi altri. Io penso, guarda, ho sempre pensato che è soltanto una questione temporale. Se io fossi nato, per esempio, in un tempo diverso da questo in cui mi trovo oggi, magari sarei stato un altro personaggio, capisci? Certo. Perciò alla fine è un discorso un po' anche, non dico stupido, ma è un discorso semplicemente temporale. Se c'è stato un grande artista del passato, ciò non significa che ce ne possa essere un altro oggi. Però soltanto che i meccanismi di produzione, la massa, la televisione, la discografia, come vanno, fanno ciò che questo non avvenga. Si legano a quel nome, vendono 10.000 dischi di quella persona, anche morta, altri 10.000. Soprattutto perché loro si legano proprio a quel nome, perché sanno che quel nome gli porta soldi, anche dall'oltretomba, capisci? E quindi non uscirà mai più nessuno. Ma anche se c'è, capisci? È un fatto proprio di business, sì. Non lo fanno uscire. Posso dire il contesto è multivettoriale. Dimmi. Il contesto è multivettoriale. L'ho detto per lasciarti perplesso. È multivettoriale. Sì, infatti. L'ho detto solo per lasciarti perplesso. E infatti, ce me l'ho fatta un'altra volta. Ce l'ho fatta, dimmi. Ce l'hai fatta. E allora lo sai stasera che faccio? Sei proprio bravo. In sintonia perplessa. Quindi. Bravo, e allora lo sai che faccio? Io sposto qualche pezzo nella playlist che mi hai dato e metto subito Lucio Battisti con Supermarket. Supermarket giovedì, tu lavori lì, direttore tu lo sai, dimmi dove è lei, non c'è, non c'è, ammalata forse, comunque qui non c'è. Le banane comprerò, ma però dove è andata stamattina non lo so. Scatolette colorate, carni rosa congelate, c'è di tutto intorno a me ma lei non c'è, no. Supermarket venerdì, tu lavori lì, dimmi ieri come mai tu non eri qui, tutta colpa della frutta, ne ho mangiato troppa e così sono stata a letto giovedì. Ah, fantastico questo pezzo. Mi senti, Pete? È bellissimo. Sì, dimmi, no, che volevi... tu mi stavi scrivendo una cosa in chat. Sì, no, ho scritto praticamente, cioè, c'è Skype, siccome la connessione va, cioè, va un po' schifo, diciamo, no? Che va un po' lenta, possiamo così, dirlo, mica ci pagano le bollette, sì, loro. Sì. No, si perdono parole, allora alla fine arriva come un mix, cioè, di un testo nuovo, cioè, tu ascolti una canzone, ma arriva tipo super, cioè, questa è un cazzo. E questa la pubblichiamo, questa diventa il remix by Skype, giusto? Sì, infatti, Skype ha un futuro da DJ. Ha un futuro da DJ. Ma poi addirittura Lucio Battisti, insomma, mentre canta dice supermarket, supermarchette, quindi sta tutto a chi ascolta, penso. Pronto? Pronto? Hello? Dimmi, dicevo, mentre sì, Lucio Battisti cantava, io sentivo dire non solo supermarket, ma anche supermarchette. Sì, infatti. Ma lì era un genio, era un grande. Che poi vabbè, i testi li scriviamo gol, non c'è dubbio, però comunque... ma ci metteva il suo, ci metteva il suo, devo dire. Lunghe pause su Radio Pazza, prossimamente su Discovery Channel. Ci sei, Pitti? Senti? Sì, ma hai detto qualcosa, scusa, non ti ho sentito, aspettavo che dicessi qualcosa. No, niente, sto per creare una nuova rubrica, si chiama Lunghe Pause. Ah, bellissimo. Oh, tienimi presente, Lunghe Pause, perché sì. Secondo me sarò il numero uno, cioè ogni domanda ci metto 4 d'ora per riceverla e 15 minuti per risponderla, quindi... Vabbè, ma questo è il compromesso, insomma, che abbiamo fatto con la tecnologia. Senti, io vorrei parlare un po' di concerti. Quanti concerti hai fatto, più o meno, fino ad oggi? Ma guarda, diciamo che ho avuto una fase in cui stavo solo e quindi sono stato anche all'estero, tra cui sono stato anche a Barcellona, ho dato qualche concerto, diciamo, in solitario italiano? Però in italiano? Sì, in Italia, cioè portavo i pezzi miei, questi qua, che poi alla fine puoi trovare su MySpace, più altri pezzi, facevo quelli. Poi ti dirò, guarda, io... Tu sicuramente conoscerai Razzmatazz, no? Sì. Come posto. Sì, è tipo un grande magazzino, c'è... praticamente. Ecco, c'è un brano che io ho scritto, che è President Dance, che stasera non ascolteremo, però su MySpace si può trovare, è stato passato in quel locale. Fantastico. Quindi... L'hai suonato dal vivo o l'hanno passato così i DJ di ruolo? Hanno passato DJ, perché io gli ho portato il CD, no? Me lo sono trovato nella busta, che ero lì quella sera. Allora, niente, questo metteva sulla musica con i dischi, con i CD, no? Con i vinili alla fine. Che e gli ho fatto, senti, guarda, questo pezzo non è che magari lo ascolti e me lo mandi. E lui fa, sì, un attimo che lo ascolto. Lo mette in cuffia, se lo ascolta, mi fa il gesto dell'ok, dopo un po' l'ha lanciato, diciamo. Ed è stata una cosa bellissima, perché comunque è un'esperienza molto bella, vedere tante persone, perché cosa... è molto grande, ragazzi. Te la immagini una cosa del genere in Italia, tu? Sicuramente no, cioè, anche perché mi è capitato di trovarmi in posti in cui mi hanno promesso che poi alla fine mi sono passati i pezzi miei, in realtà sono stato fino alla fine della serata, cioè, i pezzi miei non sono stati passati. Cioè, perché con la ragnatela nelle orecchie. No? Cioè, come? Con la ragnatela nelle orecchie, dico. In attesa. Mi sono perso qualche parolina, perdonami. No, fa niente, andiamo avanti. andiamo avanti, è il mio scherzo senso dell'umorismo che riesce a non trovare risposta e mi lascia perplesso. E quindi siamo in due. Sì, infatti. Bellissimo. Infatti. Senti, ricordati sta cosa. Fin quando si rimane perplessi nella vita, va sempre bene. L'importante è rimanere, cioè, non perplessi. L'importante è essere perplessi. No, infatti sarebbe una vita scontata senza. Questo è una cosa che sto realizzando oggi, perché poi ho iniziato la ricerchina. Io, come al solito, mi lascio prendere, entro in un tunnel di parole che... Sai, no, è come una specie di viaggio, ogni piccola ricerca che uno fa, e anche un po' l'essenza di queste interviste che sto facendo, a parte che è l'opportunità per me di entrare in contatto con artisti che mi piacciono e addirittura in qualche caso anche quelli che ammiro, però sai, cominciare un po' a informarsi su qualcuno a un certo punto ti porta anche a capire un po' qualcosa di te, perché ci sono cose che ti piacciono e cose che non ti piacciono. per esempio, no? Esatto, giusto così. Se tu fossi nel mio ruolo, io nel tuo, qual è la domanda che mi faresti? Qual è la domanda che faresti a Analogico Perplesso? Che cosa vorresti sapere? Ok, vorrei che mi fu... cioè io ti chiederei quanto costerebbe un'intervista telefonica, cioè secondo te fatta realmente a telefono invece che Skype? Attraverso Skype o telefonica, cioè cellulare? No, telefonica proprio, cioè telefono da casa a casa, fisso o mobile? Da casa a casa non avverrebbe questa intervista, te lo garantisco. Ah no? È assolutamente proibitivo, non è contemplato, è fuori budget, perché questa è una radio no cost addirittura, no. Neanche low cost. In realtà mi hai spiazzato, perché comunque non saprei cosa mi chiederei, quindi... Vabbè, ma io ho lanciato questa piccola sfida perché vorrei sapere se c'è qualcosa che tu vorresti dire di te stesso, cioè una specie di enunciazione. Non so, io ti offro il balcone di Piazza Venezia e tu hai davanti la massa, vai. Che cosa vorresti far sapere di te che credi sia importante? Vocalmente, con la tua voce. Sì, oddio, me l'hai detto, però aspetta, come me l'avevi detto era bellissimo. Sono su, dov'ero? Sei a Piazza Venezia, sul balcone. A Piazza Venezia? Sì, sei sul balcone del Duce a Piazza Venezia. Hai un'opportunità, hai il microfono, vai. Cazzo. Sì, hai detto cazzo, è fantastico. Io direi cazzo. Cioè, immagino la scena. Sta gente davanti a me, che cazzo si aspetta da me adesso, dai, capito? Cazzo, questo mi direi a sta gente. Questo diresti tu, cazzo. Ma anche perché che cazzo gli vuoi dire, cazzo? Cioè, alla fine oggi. Però punto esclamativo. Cazzo. Però punto esclamativo. Per forza. Senza punto esclamativo è un po' come un perplesso. Cioè, non fai un cazzo. Quindi ci vuole il punto esclamativo. Cazzo. Punto esclamativo. E il punto esclamativo è quello che mette David Bowie nella sua carriera con Fame. Questo è un pezzo che hai scelto tu, giusto? Sì. Ok, e quindi David Bowie con Fame sarà un po'. La colonna sonora di questa sera per un angolo, un momento di fama regalato da Radio Pazza a Analogico Perplesso. Noi ci sentiamo fra più o meno 5 minuti, ok? Buon ascolto. We'll be right back. Ok Pete, siamo rientrati. Questa era David Bowie con Fame. Questo è un remix o sbaglio? David Bowie, sì, è un remix, e in più è David Bowie con John Lennon, non è soltanto lui. Con l'ho John scelto Lennon? Ce l'ho scelto apposta. John Lennon addirittura? Sì, ho capito bene. Sì, c'è John Lennon all'interno della canzone, un duettato insieme questa canzone qua. Il remix non lo so chi l'ha fatto, però la canzone l'ha fatta insieme. Ah, non lo sapevo, questa è una piacevole sorpresa, devo dire. Sì. Ecco, adesso... Va meglio, sarà vero? Preso due volte. Sì, va meglio. No, sinceramente sono rimasto un po' spiazzato perché pensavo alla domanda che mi avevi fatto prima, quella di stare, diciamo, a Piazza Venezia con la gente davanti. E pensavo, cioè... è il contesto forse. Cazzo, che era... cioè, pensavo che... Sì, cioè, dico, che cazzo gli vuoi dire a quei poveracci, no? Cioè, basta menzogne, cioè... Questo gli devi dire, cazzo, non c'è più niente da dire sta gente. Basta menzogne. Sì, no, ci sto pensando, a parte il gioco di parole o le battute, però sono fermamente convinto tu abbia ragione su questa cosa, cioè di fare affermazioni forti. Non so, tu, okay. Non è una questione di opinioni politiche, voglio dire, oggigiorno non credo che sia più necessario appartenere a una fazione politica, visto che non sembra essercene nessuna, o meglio che sembra essercene infatti solo una. La questione a questo punto si sposta più sul sociale, sì, sulle categorie sociali o sulle generazioni. Sì, infatti. Tu ti rivolgi... No, cioè, dimmi. No, stavi parlando. No, mi sono perso, dimmi quello che stai dicendo. Ecco, dico, tu attraverso la musica o comunque nei tuoi testi stai cercando di entrare in contatto in particolare con una generazione o trasversalmente all'italiano medio, se credi che possa essercene ancora uno? Guarda, io sono sincero, nei miei testi cerco sicuramente di arrivare a qualcuno, non so bene a chi, ma sicuramente è un qualcosa, diciamo, che nasce dall'emergente in emergenza, no? Cioè, se io scrivo quello che sento e appartengo, diciamo, ad una classe sociale ed appartengo ad una frazione temporale, penso che ci siano altre persone che magari vivono questo disagio, queste emozioni, e quindi spero di arrivare a quelle persone. Se poi riesco ad arrivare anche a chi non si trova nella mia condizione, ancora meglio, ma sicuramente non penso di arrivare diciamo all'altra parte delle persone. Io penso di arrivare, cioè spero di coinvolgere la gente, diciamo, che vive la mia stessa condizione, che è un po' quella precaria e quella perplessa. Quindi secondo te, diciamo, che da parte delle istituzioni, o meglio, cioè esiste ancora un rapporto fra il cittadino e le istituzioni? Non voglio entrare in un tema politico, ripeto, No, ma anche perché, cioè, sicuramente entrare in un tema politico adesso è un po' come rovinarci la serata, perché no, io non si incazzare infatti su queste cose. Esatto. Quindi, no, però secondo me no, cioè, non esiste più un cazzo. Ecco, vedi, per non tornare sempre sulla stessa parola, cioè, non c'è niente, non si può dire che esiste ancora un rapporto tra cittadini e istituzione. No, secondo me no, non c'è più storia, ecco. Storia proprio. Sì, abbiamo... Sì. ci vorrebbe un jingle in questo momento, però non ne ho preparato alcuno. Infatti. Sì, ho bisogno di un jingle, per Dio. Proprio così. Ma cazzo, me lo dicevi, te lo facevo io. Vabbè, dai, ci fai una canzone su sta cosa, dai. Va bene. Tanto c'è uno splendido futuro davanti, questo è garantito. Io posso dirlo semplicemente come ascoltatore, perché poi, sai, è molto difficile distinguere il ruolo che può avere uno speaker radiofonico, almeno della mia portata, e quello che invece può avere effettivamente un critico musicale. E oggi in Italia non so chi fa il critico musicale o cosa faccia, a parte scrivere magari su riviste importanti, però forse la differenza la fanno i produttori. Non so se vuoi confermare questa mia teoria. Sì, sicuramente, anche se i produttori, anche quelli, stanno iniziando a mancare, cioè non, ma è un po' è il sistema che è caduto della discografia, che non c'è più, quindi... Ma tutti ci lamentiamo un po' di questo, eppure le scuole ci sono, ce ne sono tante, e addirittura trasmissioni televisive cercano di creare artisti dal nulla, quindi non so, secondo te sta andando bene la cosa o si sta semplicemente conformando al mercato? Ascolta, però... Cioè, di che trasmissioni stiamo parlando? Vabbè, io volevo fare il vago, però mi riferisco effettivamente a Amici di Maria De Filippi, cose del genere. O che ne so, no, saranno famosi insieme a più così. No, aspetta, qual era? Ma non importa, non me lo dire come si chiama. Qual è quella trasmissione dove vanno a fare il Grande Fratello e poi si ritrovano tutti a fare i cantanti? Come si chiama? Sì, ma che cantante, ma per cortesia. Ma chi è il cantante? Esatto. Buona domanda. Chi è il cantante? Ma chi è il cantante? E chi le scrive le canzoni? Ma è Maria De Filippi che canta. Ma è il cantante, cioè, non capisco. Io sinceramente sono un po' contro queste cose, perché a parte che, cioè, io non sono contro chi va ad imparare delle cose, tipo a imparare a suonare uno strumento, imparare a cantare, perché per l'amor del cielo, questo ce l'abbiamo fatto tutti. Infatti. L'abbiamo fatto tutti, ce l'ho fatto anch'io, quindi. Però sicuramente sono contro a chi cioè vuole tentare di spettacolarizzare, cioè di non spettacolarizzare, so, di l'apprendimento, che poi è una anche maniera questo, anche di veicolarlo, capisci? Cioè, no, ma io penso che la musica sia andata alla merda anche per questo, comunque, cioè. Sì. E beh, cioè, non se solo per fosse, la MP3, ci fosse una grande mano, no? Una grande mano. Infatti, sopra, cioè, con le corde. Sicuramente l'MP3 ha rovinato, diciamo, un po' tutto, però non è soltanto lui, perché l'MP3, se fosse stato utilizzato magari bene, avrebbe avuto, cioè, anche un magari un'importanza positiva più che negativa, capisci? È vero, diciamo, però... che a rovinare, sì, no, l'MP3 tutto... è ciò su cui si fonda questa radio, fondamentalmente. L'MP3 è la, infatti, nostra salvezza, ci ha liberati. Infatti, poi ripeto, è che la, io non lo so, non so, cioè, non, un discorso un po' senza fine, capisci? Inizi a parlare e poi alla fine ti rendi conto che arriva un certo punto, dici, ma che cazzo sto a dire? Ecco, esatto. Poi dici, la gente sempre a Piazza Venezia, poi, esatto. E che cazzo gli vuoi dire a quelli? E questo cazzo, pubblico perplesso. Vedi che sono perplesso nella vita, perché, cioè, è virale, il tuo nome è virale, devo dire, il tuo nome è veramente virale, si propaga. A me mi sta lasciando proprio perplesso. Senti, chiudiamo perplesso. Per il momento io propongo un altro pezzo che tu mi hai sottoposto. Vai. Che sono i Nine Inch Nails con The Hand That Feeds. Quindi torniamo un po' al discorso della mano dall'alto che controlla. In questo caso è la mano che nutre, cioè il padrone del cane, tra virgolette. Sì. No? Sì. Sì. No, dico sì. Mi sono perso un attimo pensando chi fosse il cantante di questa canzone. Stavo pensando che lui in realtà è la mano, è realmente la mano, perché c'è proprio il Padre Eterno, capisci? Cioè, perché secondo me questo è uno dei più grandi artisti che abbia ascoltato nella mia vita. È veramente un bel tipo, lui, sì, concordo. Tutta la stima per questa persona. Va bene, noi ascoltiamo, dai, ascoltiamolo e ci sentiamo fra più o meno 5 minuti. Questi sono i Nine Inch Nails con The Hand That Feeds. Buon ascolto. You're keeping in still. Meraviglioso, sì, sono felice poi che tu abbia scelto anche un pezzo con delle movenze rock, perché Radio Pazza stava prendendo una piega, una piega molto elettronica. Sono stati anche un po' i due artisti che ci hanno preceduto, quindi Stereo MCs e Schneider TM, ovviamente, hanno scelto per loro stessi un contorno più fatto di suoni digitali. Invece è così un po' di carica, finalmente sono felice di presentarla io, visto che poi anche Grex e Prisma hanno offerto al nostro pubblico cose un po' più analogiche in questo caso. Ok, Pete, ci sei? Mi senti? Sì, sono sempre qui. Io chiedo sempre conferma, perché visto che la connessione è un po' ballerina, allora ho detto vabbè, ogni tanto chiedo come va, tanto ormai mi sono sciolto, non mi importa più della qualità dell'italiano che pronuncio. Infatti, sì. Posso fare un'affermazione sincera, molto sincera? Vai. Lo sai che non ho una domanda da farti in questo momento? Cazzo, tu lo sai che non ho una risposta da darti in questo momento? È fantastico. Quindi siamo in due. È fantastico. Due anime gemelle che si incontrano via Skype. È meraviglioso. Senti, cioè, com'è il tempo? Vai proprio tranquillo e liscio come l'ore, perché no, io non ho una risposta da darti. Facciamo un po' di chip talking. Diciamo, per esempio, dimmi com'è il tempo lì. Tu sei a Milano. Ma guarda, sì, sono a Milano e sinceramente ho scritto prima sul mio Facebook, che ormai siamo tutti un po' così rubate da Facebook ultimamente. Avevo scritto che il ghiaccio persiste, nel senso che c'è stata neve in questi giorni, adesso c'è ghiaccio proprio, cioè si è ghiacciata la neve, ormai è ghiaccio come la brina del congelatore, non va via, è lì a terra che fa un freddo cane. Sbaglio, è un inverno particolarmente duro, molto rigido, sì, molto rigido. Vero. Molto freddo. Lo so. E poi i giovani d'oggi non sono più quelli di una volta. No. In che senso? E proseguivo sull'onda del chip talking. Noi mi immagino di essere vicino a te, due vecchietti su una panchina in un parco che danno le briciole ai piccioni. Infatti sembra un po' mio nonno, dici, cioè i giovani d'oggi sono più quelli di una volta. Il bambino interiore torna fuori soprattutto a quell'età, quando le difese esteriori diventano più fragili e deboli, e in questo caso, siccome ho bisogno del mio bambino interiore, poi tu insomma ti dichiari bambino, perché l'analogico è sincero come un bambino, perplesso perché i bambini si perplimono continuamente, come tu dici in un'intervista, che poi mi devi dire questo verbo, sì, dove l'hai preso, perplimere. E poi certo. Penso che sia, penso che venga da perplesso, mi perplimo, no? Mi perplimo. Penso che sia corretto, speriamo che non sia una figura di merda, perché sennò sto rovinando vita, cioè. È l'arte del neologismo, concordo pienamente. Bravo. Sì. Che cosa stai facendo? Cioè, non che cosa stai facendo adesso, ovviamente stai parlando con me, però dico che cosa stai facendo da quando sei arrivato a Milano? Quanto tempo fa sei arrivato? Io sono arrivato da poco, sto qui da sono quasi 3 mesi che sono qui, non è tanto, da 3 mesi che sto qua. E se ti riferisci a cosa sto facendo a livello lavorativo? No, proprio se tu dovessi consigliare a un ragazzo del tuo paese cosa dovrebbe fare se volesse raggiungere Milano, andare lì e sistemarsi come hai fatto tu, qual è il primo consiglio che gli daresti? Di mettere da parte un sacco di soldi. Vero. La prima cosa, Questa è la prima cosa che gli devo dire. Mi dispiace, ma se non c'è minimo 2000 euro addosso, non ci venire proprio a Milano. Perché ti chiedono 3 mesi di caparra per la casa che sono già circa 1500-1600 euro al mese. Poi devi campare un mese, no? Quindi 400 euro minimo, 500 euro in tasca devi avere. Quindi la prima cosa che gli dico è questa: se non c'è 2000 euro, stai a casa. Cioè, stai a casa, non venire perché non ce la fai. Cioè, non ce la fai proprio. Questa è la prima cosa che gli dico. Pronto? Oddio, sì, no, ci sono. Sai che ho perso un pezzo? Sì. Non trovo, trovo più nella cartelletta. Aspetta, vado a vedere. Non trovo più il pezzo che mi avevi chiesto per penultimo. Perché poi dopo ci sarebbe. Oddio, che è successo? La finestra. Sì, sono entrato in una fase di sincerità totale. Non ho mai fatto un'intervista così. Vabbè, non è che ne ho fatte tantissime, ma lo sai che ho perso il file degli Ultravox. Hai perso. Non lo trovo. Sì, hai perso un gran pezzo. No, adesso lo trovo. Aspetta, allora lo sai che faccio? Faccio un trucco. Entro in modalità editing, cioè tolgo la musica di sottofondo. Ascoltate, E questo significa una cosa sola: che potrei tagliare in qualsiasi momento, mettere in pausa la registrazione, come farò adesso. Questo è live broadcasting, fantastico. E poi metto di nuovo a registrare come adesso e voi non sapete nulla di quello che è successo, però abbiamo perso dei file. Sì, ho fatto semplicemente un nuovo download. Quindi il pezzo che segue sono gli Ultravox con un brano intitolato Slow Motion. Vuoi dire qualcosa riguardo prima o magari rientriamo dopo e ne parliamo con calma? No, io direi ascoltiamoci Slow Motion, questa moviola che è bellissima. Ok, Ultravox punto esclamativo, proprio come analogico perplesso punto esclamativo, Slow Motion. Slow. Eccoci qua. Sta bene così. Io sono tornato sul tuo blog all'interno della tua pagina di MySpace, che ripeto è www.myspace.com, analogico perplesso project, tutto attaccato. E sì. Ecco, volevo parlare di Diossina Paranoia, stavo dicendo. C'è molto da dire su questo pezzo, o sbaglio? Sì, oddio, come ho detto prima, c'è molto da dire, ma anche no, nel senso che sicuramente è un pezzo che ha dato al progetto tanto e quindi merita la sua attenzione, diciamo. Diossina Paranoia è un brano che è stato scritto, come dicevo in intervista, dalla testa di un emergente in emergenza, no? Nel senso che si era presentato, io c'ho il singhiozzo, però, cioè, porco Giuda. Vabbè, fa parte della diretta, che vuoi? cioè, il singhiozzo, non riesco a farla, cioè, devo farla controllare. Vogliamo essere sinceri? Vogliamo essere sinceri? Ecco, questo è il prezzo da pagare. Senti, facciamo una cosa, vuoi prenderti una pausa e bere un bicchiere d'acqua? L'ho bevuto, è che non se ne va, cioè come devo fare a farmelo passare? Non lo so, o fai finta di cantare come Battisti prima, o non so. Aspetta, prova ad otturarmi il naso, non lo se so. Se vuoi ti metto paura. No, perché metti paura, dopo non dopo, però. È fantastico. Praticamente ma speriamo che sia andato, va, proviamo. Boh, che ne so, tanto ormai è diventato tutto un fuori onda sta intervista, va benissimo. No, sono molto contento, devo dire, vedi, poi mi sono tolto anche un po' la maschera di finto italiano, perché non sono neanche capace a parlare un italiano preciso, quindi ormai mi so ho totalmente tolto il freno inibitorio. No, scherzo, hai non fatto ho bene, non ho bevuto, così non ho bevuto. Ci mettiamo tutti ad agio. Giuro che non ho bevuto, sono fatto così. Che ti stavo dicendo? Ecco, volevo puntare un po' l'attenzione su Diossina Paranoia, soprattutto perché ti sta dando delle ottime occasioni per farti conoscere. È stata scelta nel settembre 2008 come colonna sonora per un convegno sull'emergenza rifiuti campani organizzato ad Anversa in Belgio a cura del professor Emiliano Manzillo. Ecco, una domanda. Sì. Ma perché cazzo l'hanno fatta a Anversa questo convegno se l'emergenza è sui rifiuti in Campania? Guarda, lo sai tu? No. Perché è una cosa che anch'io mi sono chiesto tante volte. Però guarda, c'è stato questo professore che mi ha contattato, mi dice: guarda, sono un professore italiano che sto lì ad Anversa, che faccio corsi in una scuola privata, stiamo organizzando un convegno con la nostra associazione, la nostra scuola, e vorremmo, siccome stiamo trattando il tema dell'immondizia, vorremmo, cioè, la tua, come bla bla bla, e dico va bene, e io l'ho data perché è bella, cioè, però se mi dici perché l'hanno fatto ad Anversa, non a Napoli, non a Milano. No, adesso, cioè, capisco perché quel professore fa base ad Anversa, adesso mi rendo conto. Però sarebbe stato improponibile farlo in Italia, o sbaglio? Non so, tu vuoi raccontarmi un po' com'è stata la tua esperienza al Mood Day, cioè il Munnezza Day? È stata un'esperienza bellissima, sicuramente, perché comunque tu pensa che Diossina Paranoia è stata scritta per l'occasione, nel senso che io ero a casa, cioè, quindi nel mio studietto, volevo scrivere un pezzo, un bel pezzo che funzionava, cioè un pezzo bello, un bel pezzo. E all'improvviso ho visto che si presentava questa occasione, che sarebbe stato questo concerto in Piazza Dante con tanti artisti sul tema dell'immondizia a Napoli. Il 23 febbraio scorso, giusto? Sì, del 2008. Quindi quasi un siccome anno ero molto incazzato. Sì, siccome ero molto incazzato, cioè, riguardo alla storia dell'immondizia, ho dato sfogo, diciamo, alla mia ira e alla mia creatività, e ho messo giù Diossina Paranoia, che tra l'altro è stato un pezzo velocissimo, l'ho dovuto fare in un tempo molto breve, diciamo circa un mese ho fatto tutto, tra testo, musica, arrangiamento, cioè missaggio, ritoccata anche più volte dallo Space anche. E l'ho mandata poi ai ragazzi che organizzavano il concerto, e ai quali è piaciuta la canzone, niente, mi hanno chiamato e ho detto: guarda, se vuoi venire a suonare comunque non ci sono problemi. Fantastico. E io sono stato felicissimo, perché comunque era quello l'intento mio, cioè ho scritto quella canzone perché prima perché volevo dire qualcosa comunque ai miei concittadini, no? Cioè ai miei napoletani comunque, e poi anche perché volevo suonare ad un concerto importante, diciamo, e tutto si è realizzato, quindi è andata benissimo questa cosa, e sono molto orgoglioso di questo progettino che ho fatto, quindi sì, anche spero perché ce ne saranno altri. Esatto, poi visto che l'hai realizzato in poco tempo, devo dire molto molto ben fatta. Non so, hai fatto tutto da solo o hai lavorato con qualcuno in particolare? No, faccio tutto io, oltre a comporre comunque sia la musica che i testi, sono anche, diciamo, tecnico del suono e produttore di me stesso, cioè faccio tutto io, quindi un artigiano. Una cosa che sì, una cosa proprio che mi piace dire, cioè realmente un orgoglio, è questa, cioè il prodotto nasce nella mia mente e viene realizzato, diciamo, tutto interamente da me, quindi dalla mente alla mano, cioè sul CD praticamente, in un'unica persona, capisci? Quindi cioè, è una cosa molto bella questa, perché comunque non c'è nessuna contaminazione esterna, diciamo, da parte di altre persone, il che può essere anche un non bene, volendo, perché magari sei aperte ad altre cose. Beh, magari è una fase, sai com'è, in questo momento della tua vita è la cosa che ti riesce meglio, non per forza sia un fatto negativo. È la cosa che mi riesce meglio, ma anche la cosa che ho a disposizione, perché molte volte bisogna fare anche i conti con quello che si può avere nella vita, cioè io ho questo e devo arrangiarmi con questo, cioè sai quante volte ho pensato di avere comunque di volere la possibilità di poter registrare questi brani in maniera seria, cioè fatti proprio con un gruppo, e di potermi esprimere ancora meglio artisticamente, però non lo posso fare. Sai quanto vorrei io montare un'antenna sopra il palazzo qui sopra e trasmettere almeno nel circondario per un raggio di 100 metri. Capisco perfettamente quello che vuoi dire, però è un po' il nostro vantaggio, ecco. È il vantaggio digitale. Sì, sicuramente il nostro vantaggio, perché io penso che va a vantaggio della creatività questo, ma va a svantaggio della promozione, diciamo, poi, o della realizzazione finale delle cose. Però ha i suoi vantaggi sicuramente, come ha i suoi svantaggi. Ogni cosa ha un pro e un contro, dobbiamo essere sinceri su questo. Ogni certo. Cosa ha i suoi pro e i suoi contro, però noi siamo felici con i nostri vantaggi, certo. Contro non li pensiamo. Ma io sono invece molto felice di averti conosciuto e spero, ti auguro soprattutto una lunghissima carriera come musicista indipendente. Qui siamo in chiusura di intervista, quindi siamo arrivati un po' ai saluti. Ah, è già finita, quindi è un'ora e mezza di registrazione. Io non so neanche come riuscirò a tagliare e montare tutto quanto senza traumatizzare un po' lo spirito positivo che ha supportato questa bellissima conversazione. Bene Pete, io penso che sia il momento di lanciare il pezzo e noi ci sentiamo presto, ma soprattutto rimarremo in contatto con te e speriamo che tu ascolti Radio Pazza, insomma. Sicuramente. Allora, magari passa sul nostro blog, che è http://radiopazza.blogspot.com. Lì trovate sia i post normalmente messi in ordine cronologico che potrete commentare con un breve testo a disposizione, o in testa c'è semplicemente un lettore flash che vi permette di navigare i canali di Radio Pazza, perché noi abbiamo più trasmissioni. Radio Pazza è più che altro una piattaforma, non solo una radio. Quindi bene Pete, io niente, ti auguro soprattutto un felicissimo 2009 pieno grazie di successo mille, e felicità anche a te. E facciamo anche i New Age e niente, chiudiamo un po' in bellezza con Diossina Paranoia. Questo è analogico perplesso punto esclamativo Diossina Paranoia. Buon ascolto, ciao Pete, a presto. Diossina, cosa grande per me. Amore, giuro, è stata colpa sua. Sono stato bloccato in centro da un sacchetto di periferia. Non mi va più di mangiare, non mi va più. testa tua è un cartone mezzo a poi riciclato l'esistenza mia. Cosa grande per me, Dio sia una cosa grande.